Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. A prima vista non è cambiato niente, eccezione fatta per la Fiorentina. Solo la Fiorentina infatti ha vinto, tutte le altre partite che ancora contavano per la classifica sono finite in parità. In realtà non solo è passata un'altra giornata, che già qualcosa significa, qualcosa pesa e cambia, ma in qualche caso il pareggio equivale a una mezza sconfitta, forse una sconfitta intera. Il caso più emblematico mi pare quello del Torino, perché a 5 minuti dalla fine era praticamente salvo, grazie anche al pareggio del Lecce con il Napoli. Oggi, rispetto a Bologna e Lecce, che domenica avranno il loro confronto diretto, è quello messo peggio in rapporto al calendario. Possiamo anche dare un'occhiata subito a questo calendario, soprattutto per quello che riguarda la salvezza, perché il Chievo praticamente è fuori, anche se non ancora aritmeticamente. Il Torino ha due trasferte a Napoli e a Roma e la partita in casa con il Genoa, e mi sembra non semplicissimo far punti. Il Bologna può, dopo aver perso lo spareggio, il primo spareggio con la Regina, e aver pareggiato il secondo a Torino, ne ha un terzo domenica contro il Lecce, e poi ne avrà un quarto sempre consecutivo in trasferta in casa del Chievo, prima di ricevere l'ultima giornata il Catania, che sembra un po' in caduta libera. Il Lecce ha questo spareggio di Bologna e poi riceve in casa la Fiorentina e poi va a Genova, e anche a Genova col Genoa, anche in questo caso mi sembra combinato un po' male. Contro Cagliari, Lazio fuori e Siena, la Regina a 27 punti, qualche piccola speranza l'ha ancora, anche se mi pare che il tracollo di sabato a Genova in casa della Sampdoria dica che in realtà insomma, è difficile salvarsi quando prendi delle scopole del genere. E a proposito, complimenti alla Sampdoria per aver giocato seriamente una partita che certamente le interessava poco, a 4 giorni dalla finale di Coppa Italia. Complimenti, speriamo che, anche alla luce del fatto che Mazzarri è stato un allenatore storico per la Regina e che quindi i cattivi pensieri alla vigilia si sprecavano, la risposta è arrivata dal campo. Speriamo che tutte le squadre che non hanno più particolari obiettivi di classifica si comportino così da qui alla fine. Poi ci sono mille altre considerazioni possibili, anche alcuni dati statistici interessanti, ma in attesa dei vostri interventi del lunedì ripassiamo le dichiarazioni più significative della giornata, cominciando da quelle serali, dopo la partita che in fondo era la partita vera di cartello, e cioè dopo Milan-Juventus. Ancelotti: No, questo era un discorso chiuso, ho detto l'obiettivo rimane, adesso abbiamo 3 partite, ci basta una vittoria per entrare nelle prime 3 e cercheremo di chiuderlo sabato prossimo a Udine. Sappiamo che non è facile, perché Udine è in un ottimo momento, però bisogna provarci, abbiamo 3 partite per farlo, penso che una di queste riusciremo a portarla a casa. La Juve attraversava un momento particolare, contava molto su questa partita e penso che l'ha giocata bene. Amo molto il calcio italiano, anche con i suoi paradossi, con le sue polemiche, lo amo molto e cerco, diciamo, anche con la comunicazione di dare esempi positivi. Insomma, quello che è successo a Ranieri nell'ultimo periodo non è certamente piacevole per un collega, perché c'è la tendenza, come sempre, a giudicare il momento, e naturalmente il momento che ha passato la Juve non è stato positivo, però io credo che bisogna fare un discorso più a lungo raggio se vogliamo migliorare anche la cultura sportiva. Parole apprezzabili, parole che partono però dal presupposto di una cultura sportiva di cui sinceramente il paese non sembra poi così provvisto. Scrive Maurizio da Gemona del Friuli: chiederei un accenno all'Udinese e alla sua splendida rincorsa all'UEFA. L'Udinese in 5 giornate, oltre ai 15 punti fatti, è passato dal 14° all'8° posto. Le dirò, Maurizio, che sì, certo, questo è un filotto sorprendente, ma mi sorprende meno questo rispetto a quello così negativo che c'era stato verso metà stagione, perché credo che per caratteristiche e per qualità l'Udinese sia più vicina a una squadra che può fare appunto una serie positiva di questo genere che non a quella che non solo non vinceva più, ma che perdeva praticamente sempre. Sentiamo Ranieri. Ci siamo riattivati, era quello che dicevo, purtroppo la sosta ci aveva portato fuori rotta, non eravamo più noi, eravamo un pochettino troppo lunghi, invece questa sera siamo ritornati, la Juventus che aveva fatto ottime partite per tutta la stagione, per cui siamo ritornati a un mese e mezzo fa, quando giocavamo concentrati, compatti e sapevamo quello che dovevamo fare, ci aiutavamo l'uno con l'altro, ma le distanze erano la cosa più importante, perché ultimamente invece eravamo troppo lunghi, non riuscivamo a giocare come eravamo abituati. Mi seccava tremendamente perché avevamo creato 3-4 palle buone per far gol e poi loro in una così mezza e mezza erano riusciti a passare in vantaggio, però avevo fiducia perché quando giochiamo così noi le palle gol le creiamo e prima o poi il gol lo facciamo sempre. E Vincenzo purtroppo nei 2 anni che siamo stati qui ha avuto sempre piccole cose che nel momento suo migliore, un infortunio, un qualcosa che lo portava a stare fermo, per cui quando lui sta bene è dirompente, perché ti dà profondità, è un generoso, è uno che si sacrifica per la squadra, per cui lui ha giocato ogni qualvolta io l'ho visto meglio degli altri e così hanno giocato tutti gli altri. Grande partita davvero quella di Iaquinta ieri sera, che anche perché insomma ha dovuto fare reparto da solo, visto che Amauri dopo l'infortunio non sembra ancora essere tornato, anzi è molto lontano dal giocatore di prima. Lo ammetta, scrive Paola da Prato, lei con Giovinco ha toppato, è solo un buon giocatore, niente di più. Beh, intanto nessuno ha mai speso la parola fuori classe, nemmeno campione per Giovinco, però prima di emettere sentenze bisognerebbe vederlo giocare un pochino, no? Bisognerebbe dargli la possibilità di far vedere, soprattutto con un minimo di continuità. Io ero scettico all'inizio di stagione sul fatto che la Juventus gli desse spazio e temo di aver avuto ragione. Credo che quel genere di giocatore debba arrivare dopo essersi affermato in una squadra superiore all'Empoli in maniera da essere più credibile come inserimento immediato. Adesso la Juventus ha già comprato Diego, se io fossi in Giovinco sicuramente proverei ad andare a fare il campioncino o il buon giocatore da qualche altra parte, perché non mi sembra la società intenzionata a investire su di me con continuità, però questa è una sensazione. Una frase credo abbastanza recente, cioè aggiornata dopo il risultato ieri sera di Mourinho, sentiamo. Quello che posso dire è che a noi mancavano 6 punti per vincere il campionato e adesso mancano 5. Risultato che mi piace? No, non mi piace. Però preferisco 5 punti per le ultime 3 partite che 6. Questo non è un... No, non era aggiornato questo frammento evidentemente, perché risaliva al pomeriggio. In realtà all'Inter potrebbero anche non servire più dei punti in assoluto, visto che il Milan gioca in anticipo sabato sera a Udine e visto il momento dell'Udinese ho l'impressione che non sarà facile per il Milan passare lì. I punti disponibili oggi sono ancora 9. I punti di vantaggio dell'Inter sono rimasti 7, sicché se il Milan pareggia sabato sera si arriverebbe a uno spareggio, ammesso e non concesso che l'Inter poi perdesse sempre, ma in realtà con una sconfitta del Milan l'Inter potrebbe essere campione d'Italia fin da sabato sera senza nemmeno giocare. Dopodiché, se invece sarà costretto a giocarsela l'indomani, l'avversario è il Siena e non è detto che sia poi sempre Materazzi a calciare i rigori. Di Carlo un commento sulla partita di ieri, perché? Ma perché il Chievo ha fatto un'ottima figura contro l'Inter, ha rimontato 2 volte con pieno merito, nel finale è andato più vicino alla vittoria di quanto non sia andata la squadra che comanda il campionato e a quota 36, ripeto, non ha ancora la salvezza aritmetica, ma insomma si è avvicinata notevolmente. Di Carlo. Sicuramente oggi faccio i complimenti un po' alla squadra, ma anche ai tifosi che ci hanno incitato per tutti i 95 minuti, che c'erano tanti interisti, però la partita comunque è stata una partita bellissima sotto l'aspetto della qualità tecnica, della tattica, e rimontare 2 gol all'Inter oggi non era facile, ma il carattere e la determinazione che noi stiamo mostrando in campo negli ultimi 3 mesi, 4 mesi ci dà grande coraggio, soprattutto per quanto riguarda la salvezza, perché l'obiettivo nostro è comunque la salvezza. Abbiamo 3 partite ancora difficili da affrontare però in questo momento del campionato noi stiamo bene, noi andiamo in campo decisi, convinti di poter far punti con tutte le squadre, oggi abbiamo dimostrato ancora oggi che contro una grande squadra che è l'Inter, squadra dei campioni, siamo riusciti a livello tattico, a livello anche di gioco, a tenere testa a questa grande Inter. Perciò un punto importantissimo che deve darci la forza e il coraggio di andare a Genova a cercare di fare ancora altri punti per la salvezza. Dal mio punto di vista, scrive Sergio, tassista milanese, la Juve ha giocato da provinciale che non vuole prendere scoppole. Cosa ne dice? Dico che la Juve ha giocato le sue partite migliori, le ha sempre giocate da provinciale quest'anno, perché questo è un po' il suo spirito e un po' la sua caratteristica. La Juventus ha costruito le sue fortune di quest'anno, che poi sono declinate un mesetto fa circa, proprio sulla corsa, una corsa abbastanza sfrenata e continua, direi anche sulla modestia, comunque sulla consapevolezza dei propri limiti, sull'aggressività, sulle caratteristiche di una squadra provinciale. D'altra parte questi erano gli uomini, con rarissime eccezioni, che poi erano quelli che davano invece il coefficiente di classe in più, queste sono le caratteristiche del telaio di massima di questa squadra, perlomeno in difesa e a centrocampo. Poi sentiremo tra poco le opinioni di Camolese e di Papadopoulo, cioè degli allenatori di Torino e Bologna, su questo primo spareggio, anzi sul secondo, poi ripeto c'era stato Bologna-Reggina la settimana scorsa, primo di confronti diretti che decideranno in gran parte la discesa in Serie B. E ricordo che di quattro squadre che lette dal basso sono Reggina, Lecce, Bologna e Torino, solo una si salverà. Adesso sentiamo Fabrizio che ha chiamato da Ancona, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, io sono un tifoso dell'Inter, sì. E credo che oramai lo scudetto sia deciso, e quindi questo sarebbe il terzo o quarto scudetto consecutivo per l'Inter, e diciamo che al di là di tutto penso che sia meritato, però secondo me occorre fare qualche valutazione in più in merito a questo scudetto. Innanzitutto dobbiamo, vedendo per esempio la classifica dei marcatori, notare che nell'Inter, a parte Ibrahimovic, nessun attaccante è in doppia cifra. E tra i Balotelli, Adriano, Crespo e Cruz non hanno segnato in 4-15 gol. L'Inter ha un centrocampo, secondo me, è inferiore a quello di Milan, Juventus e della stessa Roma. Ha fatto una campagna acquisti fallimentare, Quaresma è sparito, Mancini non si è mai visto, Muntari è un giocatore diciamo medio, eppure nonostante tutto l'Inter ha vinto. Voglio arrivare a questo, secondo me questo scudetto dimostra ancora una volta quanto il livello del calcio italiano si sia abbassato nel corso di questi anni, e sono sicuro, e questo lo dico da interista, che la mia Inter, se avesse disputato un campionato più competitivo come per esempio la Premier League, difficilmente sarebbe arrivata fra le prime quattro. Quindi voglio dire a tutti, fra le prime quattro non lo so, mi scusi Fabrizio perché l'intervento sta diventando lungo, e soprattutto a lunedì lei sa che bisogna cercare di darsi i turni, no? Di essere un pochino più sintetici. Io condivido praticamente tutto quello che lei ha detto, non del tutto la valutazione su Muntari. Credo che Muntari, senza essere chissà chi, sia però un giocatore prezioso, e che quest'anno nell'Inter si è fatto sentire, poi magari qualche volta si fa sentire troppo perché si fa trascinare il temperamento, come gli accadeva già a Udine, ma direi che questo dei tre acquisti questo è uno che ha pesato. Sugli altri due si stende un velo, come d'altra parte ha già fatto lei. Sulla caratura internazionale dell'Inter, ma delle squadre italiane in assoluto, in questo momento particolare, mi pare che lei abbia ragione da vendere. Leonardo, sentirei da Bologna, buongiorno. Grazie, buongiorno Granzini. Dica. Allora, io adesso parlerò 5 secondi di un argomento che so che non le sta molto simpatico, però non posso fare altrimenti. Volevo parlare dell'arbitraggio ieri della partita, ovviamente, dello scontro salvezza Torino-Bologna. Cioè, dopo 5-10 minuti ho visto la partita, ovviamente, cioè, ha dato un calcio di rigore che nessun calcio di rigore è impossibile da dare, si può dare tutto per l'amor del cielo, però secondo me era praticamente inesistente, dato che vertiva su una partita. Sono d'accordo. Non erano 5-10 minuti, però, cioè non cambia nulla, cambia poco. Ma giusto per dare un'idea, quel rigore è arrivato verso la mezz'ora del primo tempo. Era un rigore inesistente, era un rigore che, insomma, effettivamente si presta, a parer mio, a qualche riflessione. Sa perché? Perché se non ho letto male una statistica qualche giorno fa, Morganti in tutto l'anno non aveva mai concesso un calcio di rigore, aveva espulso credo 17 giocatori in tutte le partite arbitrate e arbitrato spessissimo, ma non aveva mai dato un rigore. Che il primo rigore lo dia alla squadra di casa dopo mezz'ora e sia un rigore assolutamente o praticamente inesistente, in effetti qualche malumore e qualche cattivo pensiero lo può anche autorizzare, sempre a parer mio. Torniamo con qualche numero. Per esempio la Juventus non vince da 6 partite in campionato, poi la Coppa è anche Coppa Italia, anche peggio, se si conta anche quello, ma non vince da 6 partite ed erano 8 anni che non accadeva. L'Inter ha vistosamente rallentato nell'ultima parte di campionato, anche in virtù del vantaggio che aveva in classifica, ma insomma ha fatto 6 punti negli ultimi 15 disponibili, cioè 6 punti nelle ultime 5 partite. Classifica molto parziale, ovviamente, capitanata dall'Udinese a quota 15 che ha fatto l'Amplen. Totti è arrivato a 176 gol in Serie A ed è a 2 gol da Boniperti, ormai sta scalando la classifica di tutti i tempi. A proposito di punti, 16 ne ha fatti il Chievo nelle ultime 10 partite ed è ovviamente una media assai più che da salvezza, anzi sarebbe una media da UEFA abbastanza tranquilla. Simone ha chiamato da Ancona, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Buongiorno. Le volevo chiedere solo questo parere, ecco, su Milan Juventus di ieri sera. Premetto che sono un tifoso del Milan, quindi tra virgolette non dovrei neanche dire questa cosa qua, ma io ho assistito a una farsa nel secondo tempo. Cioè, ho visto una squadra, la Juventus, che in contropiede poteva andare a far gol, che tornava indietro, che si fermava. Ho visto un pareggio che stava bene a tutte e due le squadre, con Caressa, poveretto, che stava esaltando le nuvole che passavano sopra San Siro, perché per il resto non c'era da esaltare niente, quindi volevo chiedere solo un suo parere. Ecco, non lo so, l'ho vista molto distrattamente, non ho avuto questa sensazione, tantomeno negli ultimi 10 minuti, quando mi pare invece che tutte e due le squadre avevano mollato gli ormeggi e fossero davvero a tutte e due alla ricerca del colpo. Farsa lo escludo, che il pareggio potesse non andare male alla Juventus ci siamo, che potesse andare al Milan non mi risulta, anche per ragioni di classifica, così, di prestigio, di tener viva, insomma, la lotta un pochino di più, sì, che io penso che lei sia fuori strada, però tutto può essere, insomma. Da Firenze Boris, buongiorno. Buongiorno dottore, come va? Dica, bene? Grazie, si dica. Bene, stai a sentire dottore, io sono un tifoso della Fiorentina. Sì. Noi ostri siamo un po' orfani, però essendo tifoso della Fiorentina non mi piace la Juventus, non mi è mai piaciuta, anche perché ci hanno rubato tante partite. Allora, le volevo dire, della Juventus, intanto l'allenatore a me mi fa un po' effetto perché sembra un rappresentante di Arsenal, ha morto invece un allenatore. E poi ho letto su dei giornali che l'AFO dovrebbe fare il presidente, Marcello Lippi di Viareggio dovrebbe fare il general manager, sembra che chiamino anche Moggi, anche se non lo fanno il campionato un altro anno, hanno bello vinto loro, non c'è problemi, questa è una squadra protetta da tutti. Boris, anche anche da Gesù Bambino. Io credo che l'età dia alcuni diritti, no? Ma poi non a patto di non esagerare, di non approfittarsene in misura eccessiva. Che ne dice? Io credo che il resto del pubblico all'ascolto potrebbe essere d'accordo con questa osservazione. Un po' di vantaggio sì, ma esagerum anen, come diciamo noi piemontesi. Filippo, provincia di Roma, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Dica. Buongiorno, io sono anche un tifoso interista. Mi sente? Sì, certo. Sono un tifoso interista che Mourinho come allenatore mi è molto simpatico perché diciamo dice quel che pensa. Mm-hmm. Poi ecco, vorrei fare una domanda sulla nuova formula di calcio che vogliono fare, Lega A e Lega B. Allora, per me ci saranno delle gravissime conseguenze. perché purtroppo non è che siamo come a livello pallavolistico e a livello di basket. Vorrei sapere il suo parere, l'ascolto per radio. La ringrazio e buonasera. Ma buonasera, mi sembra un po' prestino, adesso è chiaro, abbastanza fino a tardi. Comunque non il mio parere, credo che, a parte il fatto che come tutti i pareri conta nulla, il mio parere è che insomma, tutte le società europee, anche quelle di primissimo livello, non sono conciate bene da un punto di vista amministrativo, da un punto di vista di rigore, di bilanci, e questo è un problema che l'UEFA sta affrontando molto seriamente. Noi abbiamo scoperto recentemente che, pur essendo i nostri club combinati abbastanza male, non sono certamente i peggiori d'Europa. All'estero c'è ben di peggio, ci hanno superati, no? in volata in questo, parlo di inglesi e parlo anche di spagnoli. Dire se la Lega A, e cioè insomma il campionato di A, debba continuare, le società di A debbano continuare con questa mutua assistenza nei confronti della B, che vive al di sopra delle proprie risorse ancora più di quanto già non faccia la Serie A, non saprei. Io credo che prima o poi questo distacco sarebbe arrivato, e adesso grosso modo ci siamo. Poi, come in tutte le riforme, in tutte le svolte, si tratta di saperle affrontare nel modo migliore. Tutto qua. Carlo da Roma domanda: cosa intende cattivi pensieri su Morganti? Se voleva aiutare la squadra di casa non avrebbe annullato il gol di Barone? No, assolutamente no, il gol non l'ha annullato lui, l'ha fatto annullare Guardalini, e quel rigore mi è sembrato un indennizzo proprio per questo, perché il gol di Barone era di quelli che li annulli o non li annulli e non sbagli, nel senso che stiamo parlando di centimetri, forse una ventina, non di più, anche se poi in realtà il Guardalini ha preso la decisione giusta, intendiamoci. Ma diciamo che, ripeto, se un arbitro che non dà un calcio di rigore in tutta la stagione, avendo arbitrato non sempre ma spessissimo, come primo calcio di rigore di tutto il campionato dà quello, insomma non è una cosa che mi convince poco, tutto lì. Sentiamo a questo proposito i due allenatori di ieri, di questo scontro salvezza. E cominciamo da Camolese, visto che giocava in casa e visto che è il Torino che ha perso un'occasione forse irripetibile. La prestazione dei giocatori che fino alla fine hanno lottato, dopo il pareggio del Bologna all'85esimo hanno ancora avuto la forza di costruire una palla gol prendendo una traversa. L'ottimo inizio che meritava sicuramente più del calcio di rigore. Poi è normale che in partite di questo livello c'è da attendersi anche il ritorno degli avversari. Abbiamo corso molto raccogliendo secondo me meno di quello che la squadra ha prodotto. A Rosina per me non è mai stato un problema. Io ho detto che la salvezza del Toro passa dalle prestazioni di tutti i miei giocatori. Lui ha avuto dei problemi fisici, adesso li sta superando, purtroppo non ha ancora i 90 minuti nelle gambe all'altezza delle sue qualità, ha avuto poi dei crampi, ho dovuto cambiarlo, e questo ovviamente mi dispiace, però è chiaro, siamo a fine stagione e i giocatori hanno delle risorse anche limitate, quindi un complimento va a lui, ma va soprattutto a tutti i ragazzi che hanno dato tutto quello che avevano in corpo. È stato anche sfortunato indubbiamente il Torino nell'assalto finale, esattamente come il Lecce. Mi pare che la traversa colpita da mi pare Colombo del Torino sia stata contemporanea, esattamente contemporanea a quella che ha colpito Tiribocchi a Lecce. Certamente se fossero entrati quei due palloni oggi staremmo parlando di una situazione diversa, anche perché complessivamente si sarebbe trattato di due vittorie meritate. A proposito di Rosina e dei calci di rigore, Rosina oggi e il Torino non possono certamente festeggiare questo singolare e comunque prestigioso primato, non possono festeggiare perché la partita non l'hanno vinta, ma Rosina da ieri è il rigorista più infallibile della storia della Serie A, nel senso che ha calciato 11 rigori in Serie A da quando gioca nel Torino e li ha segnati tutti. Non c'è nella storia del campionato italiano, nemmeno tra i grandissimi specialisti di sempre e di ogni generazione, non c'è un rigorista più infallibile di Rosina. Il precedente record era di Adelio Moro, giocatore del fine anni 70-80, che aveva un 10 su 10. Rosina adesso è 11 su 11 ed è ed è attualmente il più bravo. Sentiamo se facciamo in tempo Papadopoulos. Morganti non ha avuto esitazioni nel decidere di assegnarci questo rigore contro e quindi non possiamo far altro che prenderne atto. Vedendolo ancora meglio così in televisione, mi sembra che al massimo ci fossero gli estremi per poterci dare una punizione per gioco pericoloso da parte di Castellini, anche perché Rubin, mi sembra, questa palla è riuscita a giocarla e quindi non è stato nemmeno contrastato. Però non mi va di commentare, perché altrimenti domenica si sono lamentate delle squadre per degli arbitraggi, oggi ci andiamo a lamentare noi. È praticamente un po' il cane che si morde la coda e noi non vogliamo ulteriormente mettere pressione a un campionato che già c'ha pressione per gli obiettivi naturalmente che le squadre vogliono perseguire. Diffidiamo del calendario facile, perché una settimana fa credevamo appunto di poter beneficiare di questa situazione e poi invece ci siamo accorti che questo calendario non era poi così facile. Meno male che non gli andava a ricommentare, gli fosse andato probabilmente sarebbe stata doveva fare una lezione straordinaria. Duilio dalla provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io ultimamente sono rimasto un po', diciamo, indignato dal comportamento che dei giocatori sudamericani, le loro bisbocce, tutta gente che va in giro a bere, insomma, frequenta troppo il triangolo delle bevute qua, questi qua. Mi avrebbe caricarli su Vulcania e mandarli al suo paese quando qua. Duilio, dico che rispetto agli inglesi o comunque ai britannici, ma anche agli stranieri che giocano in Inghilterra, sono tolto Adriano, che insomma sappiamo le sue degenerazioni, credo che siano praticamente astemi tutti gli altri che gravitano intorno a Milano, o comunque i sudamericani, come li chiama lei, rispetto a come bevono in Inghilterra. Non ci sono dati leggeri i pubblici ministeri napoletani, Beatrice e Narducci, nella richiesta di condanne per gli imputati di Calciopoli. Gli imputati che vengono processati, che hanno chiesto il rito abbreviato. Allora, la richiesta più pesante, 5 anni di reclusione, è per Antonio Giraudo, ex amministratore delegato della Juventus, per associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva. 2 anni per l'ex presidente dell'AIA Lanese. 3 anni e 6 mesi per Pieri, se parliamo di arbitri, 2 per Cassarà, Dondarini e Gabriele, 1 anno e 4 mesi per Messina e Rocchi. Sul fronte assistenti c'è la richiesta di 3 anni per Baglioni e 1 per Foschetti e Alessandro Griselli. Ripeto, questi sono gli imputati che hanno chiesto il rito abbreviato, mentre venerdì prossimo invece riprenderà il processo di Calciopoli, che si svolge col rito ordinario e che vede imputati tutti gli altri del gruppo. Tra le dichiarazioni di ieri mi piace segnalarne 2, una per civiltà e l'altra, ma tutte e due per civiltà, in particolare per fair play, quella di Allegri. Allegri è allenatore del Cagliari, non è la prima volta che si dimostra signore quest'anno, oltre che un davvero un bravo allenatore. A proposito della diatriba che poi è sfociata in una mezza rissa tra Totti e Conti sul secondo gol della Roma, cioè su quello del pareggio, e tutto è nato dal fatto che i cagliaritani, cioè Conti, accusava la Roma di aver giocato non avendo buttato la palla fuori. Allegri onestamente ha ammesso: la palla ce l'avevamo noi prima di loro, poi loro l'hanno riconquistata e hanno continuato l'azione fino al gol. Diciamo che ci sono situazioni in cui una volta ci si ferma e una no. Per me la soluzione migliore sarebbe quella di non fermarsi mai, perché tocca all'arbitro decidere se l'incidente è grave e merita l'interruzione. Non conosco molti allenatori che si sarebbero espressi in questi termini dopo una vicenda conclusasi comunque in maniera da danneggiare la squadra e di ristabilire la verità, perché la verità vera è quella: la palla l'aveva il Cagliari quando Cossu è rimasto a terra e il Cagliari non l'ha messa fuori, dopodiché era perfettamente legittimo che la Roma la giocasse, anzi. L'altra dichiarazione è di Luciano, ex giocatore del Chievo ed ex interista tra l'altro, che ha segnato ieri un gol magnifico e che a proposito dei fischi a Balotelli ha detto: Mario è un po' preso di mira, ha spiegato Luciano. Appena tutti lo beccano lui si innervosisce, ma guardiamo a cosa fa in campo, è ancora più forte di quanto pensassi, e dopo il suo gol da manuale gli ho fatto i complimenti, lo credo, perché ieri Balotelli ha segnato un gol da, davvero da grande giocatore. Massimo, provincia di Verona, buongiorno. Buongiorno Garanzini, intanto mi lasci dire che... Sì, lei mi sente? Sì, certo. Intanto mi lasci dire che questa è una tra le rarissime trasmissioni in cui si parla di calcio con molta intelligenza, glielo devo dire. Okay. Allora, io volevo ragionare sul Chievo-Verona. Volevo dire che a mio parere non è ancora salvo il Chievo-Verona, e le spiego il perché. È vero che è messo bene, però se noi facciamo i conti che se il Chievo domenica perde a Genoa e il Bologna vince, dopo se la giocano in casa del Chievo. Se il Bologna vince a Verona, ha sia gli scontri diretti e quindi l'ultima giornata sarebbe anche molto probabile che si salvasse il Chievo. Ecco, mi auguro che non vada così, chiaro, eh? Però voglio dire... Chiaro, non è male. Sì, diciamo che al momento ci sono 6 punti, cioè ci sono 6 punti di vantaggio in questo momento del Chievo su Bologna, se sono 9 a disposizione. Lei ha disegnato lo scenario peggiore, ma dimenticando però una cosa, che a differenza del Bologna il Chievo sta giocando bene a pallone, no? E da un certo periodo anche, non in maniera estemporanea, sicché credo che i conti da fare, i ragionamenti da fare siano altri, poi per carità tutto può sempre accadere. Facciamo un intervallo, anticipiamo l'intervallo, perché da oggi poi negli ultimissimi minuti del programma abbiamo l'appuntamento col Giro d'Italia, quindi anticipiamo il ripasso della storia. Un sembra ieri che oggi credo farà piacere ai tifosi, se non ricordo male, farà piacere ai tifosi della Fiorentina. Sembra ieri. 11 maggio 1969. Al Comunale di Torino, la Fiorentina di Bruno Pesaola batte per 2-0 la Juventus, con reti di Chiarugi e Maraschi. I Viola conquistano così, con un turno di anticipo, il secondo scudetto della loro storia, dopo quello ottenuto 13 anni prima con Fulvio Bernardini in panchina. De Sisti e compagni hanno disputato una stagione pressoché perfetta, rimediando una sola sconfitta in casa contro il Bologna alla 5ª giornata. E si è rivelata vincente la scelta di Pesaola di puntare sulla linea verde, dando fiducia a un nutrito gruppo di under 25 non ancora affermati, come il portiere Superchi, il libero Ferrante, i centrocampisti Esposito e Merlo e l'ala destra Chiarugi. La Fiorentina del 1969, il suo secondo scudetto, il primo era stato quello del 56, con grandi giocatori, come basterebbe per tutti l'ala destra Juligno, ma con una grande linea mediana, con una mezzala come Montuori, con un centravanti come Virgili. Vabbè. Poi c'è sempre tempo, c'era sempre occasione per sfogliare l'album dei ricordi. Fernando ha chiamato da Cremona, buongiorno. Pronto? Dica. Pronto, buongiorno signor Garanzini. Senta, volevo fare dirle due cose, molto brevi. Mi sente, vero? Certo. Allora, mi accosto un attimo. Dunque, la prima denoto un po' di incoerenza da parte sua, perché ha parlato dell'arbitro Morganti avendo dei dubbi sul rigore assegnato ieri al Toro, cioè un qualcosa che fa pensare, l'ha detto lei, giusto? Certo. E lei non può avere questi dubbi, perché lei è un non fautore della moviola in campo. Onde evitare questi dubbi? Perché lei dovrebbe parlare di errore dell'arbitro, come ha sempre sostenuto, che sono errori e che fanno parte del gioco. Io certo. Lo sento tutti i giorni. Infatti questo è un errore. Lei assolutamente, mi perdoni, non può avere dei dubbi. Deve semplicemente dire che è stato un errore. No. Va bene, allora è stato un errore. Fernando, d'ora in poi la consulterò perché ho qualche problema col lessico. E quindi la consulterò per usare la terminologia più corretta. Allora diciamo che potrebbe essere stato un errore quello di ieri di Morganti, ma guardi che non serve nessuna moviola in campo per vedere che quel rigore di ieri di Morganti al Torino è abbondante, ecco, mettiamola così. Si può dire abbondante, Fernando? Sì, vabbè, perfetto. Però mi perdoni, anche non serve la moviola, basta vedere e soprattutto, dato che la moviola è una truffa aggravata, perché rallenta le immagini, deforma eccetera eccetera, e non è che posso ogni volta ripassare i fondamentali di chi capisce di calcio, dato che la moviola è una truffa, io mi permetto di valutare le cose a velocità normale. A velocità normale quel rigore non ci stava mai. Ho capito, però non può avere dubbi, mi consenta. No. Lei deve parlare di errore, non di certezza. No, se non posso avere dubbi, posso avere certezze. perché lei ha lasciato intendere che c'è stato una benevola da parte dell'arbitro di dare quel rigore, che non, dopo 17 giornate, dopo che non li dà mai, poi in una partita del genere, quindi ha un dubbio un po' velato di un qualcosa che chissà che cos'è. Un giorno lei, senza togliere altro spazio agli ascoltatori che sono in coda e in lista d'attesa, un giorno mi spiegherà qual è il nesso tra la parola dubbio e la movione in campo, però un giorno, e magari me lo prendo di ferie perché ho l'impressione che sarebbe lunghetta. Paolo, provincia di Rovigo, buongiorno. No, Paolo è caduta la linea, mi facendo prontamente Fabio Cantadori in regia, che certamente ha riflessi migliori del suo amico Ronaldinho. Walter da Reggio Emilia, buongiorno. Buongiorno, senta, io dica. Purtroppo mi ha già mangiato larga parte del pane il radioascoltatore precedente. Sì. Telefono per Torino Bologna. Sì. Io ho già parlato con lei alcuni anni fa, sono un suo ascoltatore da sempre. Mi fa piacere. Oggi mi ha fatto incavolare. Perché? Proprio per Torino-Bologna, perché lei ha sempre risposto a coloro che facevano dubbi su errori arbitrali. Lei ha sempre respinti recisamente, perché dopo la cacciata di quella famosa banda juventina, lei ad un certo punto dice sempre che si trattava di errori. Oggi per la prima volta, nel caso di Torino-Bologna, la sento parlare di dubbi e di retropensieri sul rigore del Torino, che anch'io ammetto che un rigore dubbio, anche Sarai Uno ieri sera l'ha dichiarato un rigore assolutamente regolare. Ma al di là di questo, sono d'accordo con lei che la Moviola è una truffa, però non posso accettare che per sempre lei li consideri errori arbitrali, e per la prima volta, nel caso del Torino, dopo che gli hanno annullato non si sa quanti gol, 100 gol, lo so, in particolare, certo, ero preoccupato. Tira fuori per la prima volta che si tratta di dubbi e di retropensieri e di sospetti. Questo secondo me non è accettabile. Vatte, mi dispiace di averla ferita. L'arbitro Morganti ieri, a parer mio, ha commesso un errore concedendo quel calcio di rigore al Torino, e questo è un dato di fatto. Poi, avendo letto e sapendo che era il primo calcio di rigore che Morganti concedeva in tutta la stagione, la cosa mi ha incuriosito, sa che i cattivi pensieri in questo mondo ogni tanto hanno diritto di cittadinanza. Quando poi ho visto, allora se la vogliamo dire tutta, ho visto non espellere il portiere del Torino nel finale, no, perché quello è un fallo, quella è rigore e espulsione, ho pensato che dopo tanti torti al Torino, forse ieri Morganti era ben disposto a non infierire ulteriormente rispetto a tutto quello che Cairo denuncia dalla prima giornata. Franco, dalla provincia di Bari, buongiorno. Buongiorno. Dica. Volevo soltanto dire una cosa. Io sono interista, ho 40 anni. Ho aspettato 14-15 anni per vedere l'Inter vincere 1-2 scudetti. Sì. E vedo che non se ne parla nella maniera giusta, cioè è dato per scontato. Io sono felicissimo di questo ulteriore scudetto, di questa squadra che gioca bene, ha fatto il suo contro tutte le grandi del campionato italiano, purtroppo poi il Manchester ci ha messo fuori dall'Europa. Cioè, mi piacerebbe sentir parlare bene di quest'Inter. Cioè, io aspetto da anni questo. L'anno scorso Mancini e ce l'ha fatta alla fine, però cioè, mi piacerebbe sentire. Franco, credo che dalla settimana prossima, quando lo scudetto dell'Inter sarà ufficiale, eccetera, credo che verrà celebrato come merita. Diciamo che forse grande enfasi non c'è, proprio perché l'ha detto lei prima, perché è diventato un fatto abituale ormai da anni, e quindi in genere le celebrazioni avvengono, come dire, per le cose un po' meno scontate, no? Lei però dice che non è giusto considerarla scontata, insomma, vediamo un po'. Scrive Paolo Lombardi da Cremona: ieri ho sentito paragonare Milito a Cruyff, non la ritiene una bestemmia calcistica? Da scomunica, secondo me da scomunica totale proprio, ma non tanto per mancare di rispetto a Milito, ma perché manca di rispetto a Cruyff. Torniamo in onda con una notizia che ho scovato sulle agenzie e di cui non ho ancora visto echi, non ho ancora sentito rimbalzi, ma che potrebbe essere una notizia molto, molto difficile da mandare giù per il Barcellona in previsione della finale di Coppa Campioni. Sapete che ieri Barça ha giocato in casa, che è un po' come l'Inter, se vogliamo, ha sciupato il primo di tanti match ball, comunque, che non compromette per nulla lo scudetto, in questo caso il titolo della Liga, ma in ogni caso qua è stata la festa al Camp Nou, perché a 10 minuti dalla fine sul 3-1 contro il Villarreal la partita era considerata vinta, e invece riespulso Abidal esattamente come 4 giorni prima, rigore e grande gol del Villarreal alla fine di Llorente, proprio a tempo, insomma, a fil di sirena, e quindi questa delusione. Negli spogliatoi peggio, perché c'è una contrattura che sembra che potrebbe essere qualcosa di più, niente meno che a Iniesta, e sinceramente credo che in questo momento la condizione psicofisica del Manchester sia superiore a quella del Barcellona, perlomeno a 17 giorni, a 16 giorni dalla finale, ma non solo per aver salvato il Barça a Londra pochi giorni fa, ma proprio per come sta giocando in questo momento Iniesta, che mi sembra l'uomo più in forma della squadra. Se lo dovessero perdere, questa sarebbe una mazzata di quelle vere. Paolo, dalla provincia di Rovigo, buongiorno. Buongiorno, dottor Garanzini. Io ieri ero fra i 70.000 che hanno assistito a Milan-Juve. Uh-huh. E come l'ascoltatore di Ancona che l'ha vista su Sky, ho assistito un secondo tempo osceno. In parole povere, si sono rifiutati di giocare. La Juve aveva delle praterie, non ne ha approfittato. Il Milan logicamente ha fatto il suo bel TikTok stile Lidom con Seedorf senza concludere nulla. Risultato, potevamo andare a meno 5, ci ritroviamo a meno 7, tutti felici e contenti, tranne chi paga il biglietto logicamente. Volevo chiederle se sia io e lo scottatore di Ancona siamo gli unici due diciamo troppo presi dal tifo per vedere una cosa di questo tipo, oppure se sono i giornalisti che non la presenti, che hanno visto una partita diversa dalla mia. Un'ultima considerazione, ricorderei all'ascoltatore di Bari, visto che vuole che l'Inter venga celebrata, di darsi un'occhiata alle partite di gennaio e febbraio della suddetta, poi dopo forse ne riparliamo. Questo non toglie che se uno vince ha diritto a essere celebrato, e c'è da parte di chi fa cronaca e soprattutto fa commento il dovere di celebrare, al di là che possa avere avuto flessioni. Non è solo gennaio e febbraio, perché le ultime mi sembra che siano un po' dello stesso livello. Questo va a maggior disdoro di chi da dietro non è riuscito a inseguire una squadra che lei mi pare stia dicendo, sottintendendo, non essere irresistibile, no? Peggio ancora per chi l'ha lasciata andare, allora, se era così facile da prendere. Giambattista da Verona, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini, è la prima volta che telefono, anche se l'ascolto tutti i giorni. Grazie. Volevo semplicemente dire, premesso che non mi reputo un intenditore di calcio, sono semplicemente un simpatizzante del Chievo-Verona, quindi chiaramente le soddisfazioni sono quelle che sono anche poi durante il campionato. Però volevo semplicemente telegraficamente dire due cose. La prima, mi sembra che fra le squadre che lottano per la retrocessione il Chievo in questo momento sia quello che sta giocando meglio, e anche oltre che fisicamente, anche diciamo così di testa, mi pare che sia messo meglio. Poi sinceramente la seconda cosa che volevo dire, credo che passerà ancora un po' di tempo prima di sentire parlare bene dell'Inter, perché come ripeto, ieri ero allo stadio, non mi sembra di aver visto una grandissima squadra, ecco, questo. Poi senza Ibrahimovic credo che effettivamente anche la parte, cioè quella che diciamo così l'attacco, mi sembra che effettivamente sia un po' più spuntato rispetto a quando c'è lui, ecco, semplicemente questo. Grazie per lo spazio e buona giornata. Grazie Giambattista, grazie anche della sua fedeltà da ascoltatore, soprattutto grazie di quella. Ibrahimovic ha vinto gli ultimi 5 scudetti consecutivi in Italia, arrivava e a quota 6 consecutivi sempre, perché arrivava da uno scudetto nell'Ajax, ma in Italia comunque da quando è venuto qua ne ha vinti di fila 2 con la Juve e poi ne ha vinti sempre di fila 3 con l'Inter. Anzi, dato che lui conta anche i 2 della Juve, ma uno di questi è stato dato all'Inter in segreteria, come diceva Mourinho, in teoria ne avrebbe vinti addirittura 6. Insomma, per dire che dove c'è Ibrahimovic si sposta l'ago della bilancia in campo nazionale, da 5 anni a questa parte in campo nazionale. Massimo ha chiamato da Padova, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini, complimenti per la trasmissione. Grazie. Ero anch'io ieri tra i tanti che sono andati a vedere l'Inter a Verona, non vado spesso allo stadio, volevo farle 2 considerazioni solo. Non so se le hanno già fatte perché sono appena messo in linea, quindi non vorrei ripetermi. Ho visto il gol di Balotelli straordinario, ho visto un giocatore che zittisce il pubblico, non esulta, e i suoi compagni non vanno ad esultare con lui. Io sono rimasto senza parole. L'unico è stato Zanetti, che gli ha dato una botta sulla spalla e basta. Questo mi ha impressionato. E un'altra cosa velocissima, come poco poco praticante di stadi, vado per la tribuna stampa alla ricerca di personaggi famosi. Ho visto che ormai è diventato più famoso il giornalista della televisione più privata e si fanno fare gli autografi dal giornalista che, tra virgolette, sarà anche bravo, ma è giovanissimo, e magari si ignora, non so se Binonella, che per me ha rappresentato un giocatore con cui mi sono fatto volentieri una foto. Volevo sapere una sua considerazione sui nuovi giornalisti che crescono, tutto là. La ringrazio e buon lavoro. Lasciamola perdere, Massimo, perché temo sarebbe viziata da così, come dire, da antiche frequentazioni e forse da senilità, il che non mi impedisce di riconoscere talenti giovani, ma insomma, a patto di cercarne col lanternino. Sul resto stenderei un velo molto pietoso e mi collegherei invece con Pier Augusto Stagi al Giro d'Italia. Buongiorno Pier Augusto. Ciao Gigi. Ciao, facciamo partire la sigletta. Voci dal Giro. Voci dal Giro, quella di Pier Augusto Stagi, che ci racconta, questo è il primo di una serie di appuntamenti che evidentemente ci faranno compagnia tutti i giorni verso il finale di trasmissione, che ci racconta più o meno, Pier Augusto, a che punto è la tappa oggi e di che tappa si tratta. Ci ricorda, non certamente ci annuncia, perché gli appassionati conoscono la memoria, le planimetrie giorno per giorno, anzi settimana per settimana. A che punto siete? Siamo a circa 90 km dal traguardo di Val d'Abbiadene, tappa per velocisti, la partenza è stata data da Grado questa mattina alle 12.35 e quindi siamo un po' stiamo tutti attendendo una rivincita tra il nuovo che avanza, Mark Cavendish, e il vecchio che non ha voglia di farsi mettere in un angolo, Alessandro Petacchi, che ieri è stato protagonista veramente di una volata superlativa. Sì. È stato bravissimo ad anticipare la volata di Cavendish e ha colto una vittoria che forse anche lui non si aspettava di tenere in maniera così netta, soprattutto perché ha fatto un volatone di 250 metri e il britannico non ha guadagnato veramente neanche un centimetro, ha dovuto solo guardargli la schiena e prendere nota del numero. Certo, senti un po', e quindi oggi tra energia, hai detto 90 km, quindi facciamo un po' più di un'ora e mezza, un paio d'orette grosso modo. Visto che l'arrivo, guarda, è previsto tra le 16.30 e le 16.45. Sì, un'oretta e mezza, un'oretta e tre quarti, grande rivincita di ieri a Spanne. Sì. Esattamente, in attesa delle prime montagne, domani si comincia a salire, non tantissimo ma abbastanza, si arriva a San Martino di Castrozza e quindi con ogni probabilità Di Luca, Cunego cercheranno di mettere ulteriormente in difficoltà i passisti scalatori tipo le Paimer, Ivan Basso, lo stesso Armstrong, anzi forse l'uomo proprio più atteso è Armstrong, vedere un attimo come reagirà alle prime salite. Certo. Se veramente è così in ritardo di condizione, così appesantito da un infortunio avuto 40 giorni fa, ricordiamo, frattura della clavicola. Certo, oppure. Se invece è in condizione di poter recitare sempre un ruolo di primo piano. Pier Augusto, grazie, appuntamento a domani per quanto riguarda a Tempo di Sport, e tutti gli altri appuntamenti invece cadenzati su Radio 24 per seguire come si deve il Giro d'Italia. Sigla conclusiva. E giusto il tempo di ringraziare Fabio Cantadori in regia, alle prese con qualche intreccio di sigla effettivamente, con Flavio Suardi in redazione, Giornale Radio.